ovviamente benvenuta alla nostra iniziativa. Siamo ormai nel mese di giugno, stiamo portando a termine un ciclo di iniziative che la biblioteca quest'anno ha esportato, quindi non hanno luogo nella nostra sede, ovviamente la 5, ma le organizziamo con l'aiuto dell'Ufficio Cultura qui presso il Centro 3. È una bella cornice, solo che appunto ormai siamo alla fine di un percorso prima della pausa estiva e quindi ecco, accanto a queste iniziative in esterna, cosiddette, noi di solito organizziamo invece dei corsi di alfabetizzazione, come usare il computer, come navigare in internet, come sfogliare dei giornali attraverso lo smartphone o il proprio PC portatile, per cui vi invitiamo ecco, eventualmente a venirci a trovare, non solo per leggere e consultare i nostri libri, ma anche per vedere quelle che sono le varie proposte che facciamo. Ma quello che ci preme molto è continuare ad organizzare delle proposte come questa, che entra all'interno di un programma di valorizzazione e di diffusione del lavoro degli studenti universitari che qui a Bolzano vengono invitati ogni anno a partecipare al premio Claudio Augusta, un premio che è teso a raccogliere appunto la documentazione di ricerca e che poi la biblioteca cataloga e mette a disposizione a sua volta per altri studiosi, per specialisti delle varie materie. Il bando è uscito anche quest'anno, per cui se avete piacere, se conoscete qualcuno che si sta impegnando in una tesi che abbia un argomento legato al territorio, indipendentemente dalla disciplina, può consegnarlo alla nostra biblioteca e verrà inserito, appunto se ha i requisiti, nel premio Claudio Augusta 2015. Cristian Giacomozzi è un premiato, nel 2014 ha ricevuto il premio, la sua tesi è stata catalogata, inserita nel nostro catalogo, viene consultata, è una tesi interessante, La leggenda Sancti Romani di Gian Grisostomo Tovazzi e le sue fonti. Questa sera ci racconterà il proprio lavoro in una maniera un po' più divulgativa, ecco, senza essere così specialistica, ma ci interessava come titolo, come lavoro, proprio da portare a conoscenza di un pubblico che potesse poi avere degli spunti per approfondire ed essere solleticato dalla conoscenza di questi aspetti che ci riguardano da vicino. Lo accompagna questa sera il relatore di questa tesi, che è il professor Paolo Gatti dell'Università di Trento del Dipartimento di Lettere, che ringrazio per la sua presenza e a cui cedo la parola immediatamente per questa serata. Grazie. Grazie. Allora, penso che si sente bene, no? Dunque, vorrei dire due parole di introduzione all'intervento di Cristian Giacomozzi. Ma innanzitutto desidero ringraziare la dottoressa Trevisan e la biblioteca per averci invitato a questa presentazione. Vorrei dire due parole sulle ragioni che hanno portato noi, quando dico noi dell'Università di Trento, a occuparci di Santi Trentini e anche Poggio Romedio in particolare. L'interesse che alcuni di noi, in particolare la professoressa Antonella degli Innocenti e il sottoscritto, che hanno avuto per la geografia e le vite dei Santi Trentini, vanno ricercate nell'insegnamento, nella vita, nella figura di maestro di uno dei più grandi studiosi di letteratura latina medievale del secolo scorso, dei primi 10 anni di questo secolo, che è il Claudio Leonardi. Claudio Leonardi, maestro diretto di Antonella degli Innocenti, persona che ho avuto come amico, come collega, pensiamo di meno comunque come un collega, maestro, se vogliamo, autorevole per tutta la letteratura latina medievale, ha insegnato a Lecce, prima a Perugia, poi a Lecce e poi a Firenze. Claudio Leonardi era un trentino, era originario di Sacco, oggi un sobborgo di Rovereto. Claudio Leonardi... Posso interrompere, dove abitavo io? Quindi lei l'ha conosciuto? Sono nata al Taborgo Sacco. Bene, testimone. Sì, testimone oculare. Claudio Leonardi purtroppo non c'è più, è deceduto 5 anni fa, nel 2010. Ha studiato la letteratura latina medievale, ha studiato e ha amato particolarmente la letteratura agiografica, quindi le vite dei santi, e in particolare ha avuto interesse per i santi trentini. Per quanto riguarda il suo lavoro di studioso, ha prodotto edizioni, commenti, ha fondato la rivista Agiografica, una delle più importanti riviste scientifiche sulle vite dei santi che abbiamo proprio a livello mondiale, ha diretto un'enciclopedia dei santi, ha realizzato un repertorio agiografico, un repertorio che raccoglie le indicazioni su tutte le agiografie in lingua italiana medievale. Quindi, oltre che per ragioni scientifiche, Claudio Leonardi si è occupato di agiografia trentina anche per l'affetto che nutriva per la terra natale, Sacco, ma in generale il Trentino. Ho detto, ho conosciuto molto bene Claudio Leonardi e assieme ad Antonella degli Innocenti ci ha spronato ad occuparci dei santi trentini. E questo invito ha avuto un primo risultato nel 2005, quando Antonella degli Innocenti, che insegna geografia a Trento, Donatella Frioli, che insegna paleografia a Trento, e Paolo Gatti, che sono io, dicevo, nel 2005 abbiamo insieme prodotto questo volume che contiene la descrizione scientifica di tutti i manoscritti agiografici, quindi che contengono vite di santi in latino e che sono posseduti da biblioteche di Trento e di Rovereto, manoscritti agiografici latini di Trento e Rovereto, uscito appunto nel 2005. Qui abbiamo la descrizione, diciamo, scientifica di tutti i manoscritti, sia dal punto di vista codicologico, paleografico, quindi come è fatto il manoscritto, come è la scrittura del manoscritto, e poi anche per il contenuto che questi manoscritti contengono. In seguito, un paio d'anni dopo, quindi qui siamo nel 2005, nel 2007-2008, un'altra allieva di Claudio Leonardi ha preparato un catalogo simile a questo, relativo a tutti i manoscritti agiografici italiani questa volta, quindi scritti in lingua italiana, posseduti dalle biblioteche di Trento e Rovereto. Infine, nel 2013, Antonella degli Innocenti, che vi ho già nominato tante volte, e il sottoscritto, abbiamo pubblicato questo primo volume contenente le edizioni critiche con traduzione italiana e commento delle vite dei santi che fanno parte del proprio della Chiesa Trentina. Nel primo volume ci sono le numerose vite medievali di San Vigilio, quelle di San Vigilio, vescovo di Trento, quelle di Santa Massenzia, che sono 4 o 5, le vite di Vigilio curate da Antonella degli Innocenti, Santa Massenzia curate da me. Massenzia è nella tradizione considerata la madre di San Vigilio. E poi c'è anche la vita di Adelpreto, un vescovo medievale di Trento, martire, che è stata curata dal sottoscritto. Questo è il primo volume di questo corpo con le edizioni delle vite medievali latine dei santi trentini. È in preparazione un secondo volume che conterrà le vite degli altri due, o se vogliamo quattro santi, o due o quattro, adesso capirete perché. Innanzitutto San Romedio, conosciuto penso da tutti, soprattutto in Trentino, E poi le vite dei santi, dei martiri della Val di Non, Sisinio, Martirio e Alessandro. Sisinio, Martirio e Alessandro saranno curate da Antonella degli Innocenti. Romedio, che ha in totale 5 vite medievali, 3, quella di Bartolomeo da Trento e altre 2 anonime, saranno curate da me, e 2, finalmente, andiamo a Cristian Giacomozzi, e 2 verranno curate da Cristian Giacomozzi, al cui cedo adesso la parola per presentare il suo lavoro, tenendo conto però che quella di Gianfrisostomo Tovazzi, che vedete nel titolo, non è una delle vite che fanno parte di questo corpus, perché Gianfrisostomo Tovazzi non è un autore medievale. Però vi dirà tutto Cristian, prego. Allora, lo studio fatto sulle vite, sulla vita di San Romedio, scritta da Gianfrisostomo Tovazzi attorno agli anni 60-70 del XVIII secolo, è stato per me il pretesto per introdurmi nello studio e alla figura stessa di Romedio. E tolto Bartolomeo da Trento, che ha già avuto modo di citare il professore, Gianfrisostomo Tovazzi è uno degli unici nomi sicuri che abbiamo di personaggi che hanno scritto una vita di Romedio, perché in gran parte il corpus di agiografie del santo è anonimo e imprecisato, molto probabilmente anche imprecisabile per quanto riguarda l'origine geografica e la datazione storica di queste vite medievali, che grosso modo, per una serie di indizi, soprattutto interni ai manoscritti, che grosso modo presso Micapi avremo modo di vedere insieme questa sera, sembrerebbero risalire certamente dopo la metà del XIII secolo fino alla metà del secolo successivo. Ma iniziamo chiedendoci chi fosse Gianfrisostomo Tovazzi. La biografia del santo è stata curata da un padre francescano e tuttora vivente, anche se età avanzata, che è padre Remostenico e bibliotecario pure lui di San Bernardino, come era stato un paio di secoli addietro Gianfrisostomo Tovazzi, originario di Volano, dove era nato nel 1731, ben presto spostatosi nelle vicinanze di Trento, per la precisione a Cimone, dove era già nel 1734, a seguito dello zio Aldrighetto, che ha avuto il merito di introdurlo allo studio delle lettere. È interessante la figura di Gianfrisostomo Tovazzi, innanzitutto per lo straordinario cretismo che l'ha contraddistinto. È uno studioso instancabile che è stato attivo nei più variati campi della cultura, dalla geografia, di cui appunto tratterò parlando della figura di Romedio, ma anche della letteratura, ma anche dello sperimentalismo linguistico da un certo punto di vista, tant'è vero che le notizie biografiche che noi disponiamo della figura di Gianfrisostomo Tovazzi le fornisce il frate stesso al termine di un manoscritto latino che si intitola Diarium Missarum, cioè il diario delle messe, dove al termine di questo manoscritto, molto curiosamente, visto che era una figura che in un certo modo non aveva nemmeno grande interesse a mostrare la propria figura, a mettersi in pubblico, scrive una sua autobiografia molto particolare, perché la scrive in codice. Un codice che una ventina d'anni fa proprio padre Remostenico, attraverso degli aggiustamenti, delle sostituzioni di lettere, capendo qual era questo meccanismo che permetteva la disambiguazione di questo codice, è riuscito ad interpretare. E questo aspetto, soprattutto per quanto riguarda la scrittura in codice, mi ha dato modo di riflettere su quella che doveva essere la figura stessa del padre francescano, che molto spesso si interessava anche di studi letterari, linguistici, che per quell'altezza di tempo potevano essere considerati un po' rischiosi, tant'è vero che nella sua biblioteca tirolese, che è una ricognizione di quelle che erano le opere da lui frequentate nel suo percorso di formazione, ne cito una su tutte, ad esempio la Commedia di Dante, si è dimostrato come avesse avuto tra le mani un'opera scritta da un padre benedettino vissuto nel XVI secolo, che nel 1500 tondo aveva pubblicato un'opera dal titolo Steganografia sive derazione occulti scribendi, cioè steganografia, ovvero il modo di scrivere in maniera occulta, quindi scrittura in codice, opera messa subito all'indice dalla Chiesa Cattolica e sopravvissuta per circa tre ottavi di quella che era la composizione originaria, di cui una di queste edizioni a stampa, curiosamente, si trova in Biblioteca Comunale a Trento. Quindi sono anche riuscito a ritrovare un testo che molto probabilmente aveva avuto fra le mani. Sperimentalismo linguistico di Tovacci, che si dimostra anche in altri aspetti. E, il padre, come potete notare dall'arco cronologico che abbraccia nella sua vita, ha avuto modo di confrontarsi anche con l'emergere della figura di Napoleone, tant'è vero che dedica a Napoleone una lettera di elogio, che però letta nelle sue righe dispari diventa un'accusa ferocissima a Bonaparte, segno che un certo sperimentalismo linguistico e curiosità intellettuale contraddistingue questa figura, che ha avuto come suo grandissimo maestro il padre Benedetto Bonelli, originario di Cavalese, di cui, a mio modesto avviso, Tovazzi è stato un degnissimo allievo, al punto tale che forse a un certo punto ha superato lo stesso maestro, tant'è vero che a un certo punto, vedendosi quasi costretto a lavorare alle dipendenze di un padre che pubblicava quello che era il frutto della ricerca dell'allievo, adducendo delle scuse di salute, era riuscito a svincolarsi da queste pretese, che ad esempio negli anni 60 l'avevano portato a viaggiare in Veneto, di questo viaggio da memoria in un racconto intitolato Diario del Viaggio Veneto, tenuto agli inizi degli anni 60 del XVIII secolo, e dove con Veneto non intendiamo propriamente la regione amministrativa attuale, è molto probabile che ci fossero anche degli sconfinamenti verso il Mantovano, alla ricerca di manoscritti di opere scritte dal dottor Seraficus, ovvero San Bonaventura da Bagnoregio, che è uno dei dottori dell'ordine francescano e a cui apparteneva Tovazzi stesso. E dal punto di vista strettamente materiale, per quanto riguarda la produzione di Tovazzi, ha avuto modo lui stesso di diventare bibliotecario nella biblioteca di San Bernardino, che se non avete mai visitato vi consiglio vivamente di andare a vedere, e la sala che non so se riesco, che vedete qua, è la sala storica in cui ad esempio sono custoditi tra i più antichi manoscritti liturgici e di musica sacra trentina, che sono tra l'altro anche tra i più antichi al mondo, studiati in particolare da Feininger, il fondo Feininger, che magari avete avuto ancora notizia. È un'eredità letteraria che si concentra quasi esclusivamente all'interno della biblioteca, anche se qualcosa, diciamo che per malafede, è finito in Biblioteca Comunale a Trento, dove erano stati prestati dalla Biblioteca di San Bernardino dei manoscritti appartenuti al frate, con la scusa di copiarseli e poi restituirli, solo che nella biblioteca sono ritornate le copie e non gli originali. E sono ben 133 manoscritti che assommano un totale di 36.500 pagine. Ma che cosa vuol dire confrontarsi con una pagina scritta da Tovazzi? Innanzitutto vuol dire armarsi di pazienza, perché la grafia, per quanto cristallina, richiede una certa abitudine, una certa familiarità con la figura stessa. E soprattutto vuol dire essere disposti a ruotare continuamente la pagina del manoscritto, perché la foga di accumulare notizie storiche e di seguire l'istinto che voleva conservare qualsiasi cosa di cui il frate aveva ottenuto notizia lo porta continuamente a ruotare queste pagine di manoscritto per appuntare qualsiasi spazio bianco gli si presenti davanti delle notizie purché non gli sfuggissero. Contiamo che stiamo parlando di un'epoca in cui la carta era estremamente preziosa, non esistevano altri metodi per conservare la memoria, forse una pratica della memoria stessa molto più accentuata di quella di adesso, dove complice anche certi dispositivi multimediali abbiamo perso l'abitudine a ricordare le cose, e manoscritti che hanno dato modo a studiosi di epoche successive, ma anche contemporanei a Tovazzi, il quale non si è mai messo in luce, scriveva ma non per vedere pubblicate le sue opere, non per vedere innalzato il suo nome, perché era un frate francescano e conosceva bene che cosa voleva dire la parola umiltà. e hanno sfruttato negli anni successivi, tra cui ad esempio io stesso nell'analizzare la figura di Romedio. Quindi avere a che fare con questi manoscritti vuol dire avere a che fare con un personaggio estremamente complesso. Riporto qua ad esempio un'immagine di questo manoscritto che potete notare. Questo qua è proprio la leggenda di San Romedio, di cui andrò a parlare tra poco, e nella quale possiamo notare, proprio per la consistenza diversa degli inchiostri, il fatto che una pagina poteva prestarsi anche per un'aggiunta successiva rispetto a quella che era originaria, e nella quale confluiscono anche casi di cronaca, dettagli di cui ha avuto notizia solo in un secondo momento rispetto alla prima stesura, e che per qualche ragione costituivano per Tovazzi un motivo sufficiente per darne traccia perpetua attraverso la scrittura. E, diciamo che questo progetto dell'edizione delle Vite di San Romedio ha come precursore forse Tovazzi stesso, il quale era stato contattato a partire dalla fine del XVIII secolo dai padri bollandisti, che erano dei padri di origine belga sostanzialmente, che si erano dedicati alla ricognizione di tutte le vite medievali latine e anche greche, ma in un'altra serie di cui non ci occupiamo per Romedio, e volevano avere notizia di tutti questi santi e dove trovare la loro vita. Quindi avevano chiesto a quelle che potevano essere le autorità per il loro territorio, e sicuramente Tovazzi, il quale già a quella data di tempo aveva raggiunto una notevole produzione letteraria, era di sicuro un'autorità per il proprio territorio, perché aveva saputo si era dimostrato anche capace di allargare i suoi orizzonti a sud del suo Trentino, viaggiando in Veneto alla ricerca di manoscritti di cui parlavo prima, e lo considerano l'autorità a cui fare riferimento per la ricognizione delle vite medievali di Romedio, che a questa altezza di tempo, complice appunto anche i contributi di Tovazzi, vengono fissate nel numero di 4. Abbiamo la vita più antica, e probabilmente la più antica, esiste una piccola discussione di cui ogni tanto io e il professor Gatti abbiamo modo di parlare, su quale sia probabilmente il testo più antico. Diciamo che, seguendo la scansione cronologica, che molto banalmente anche la scansione numerica data dai padri bollandisti, pare essere stata scritta da Bartolomeo da Trento, e frate domenicano attivo nel convento di San Lorenzo a Trento, per intenderci geograficamente è il convento che sta tra la stazione delle Corriere e le stazioni dei treni in centro a Trento, legata ad un'opera molto importante che si intitolava Liber Epilogorum in Gesta Sanctorum, cioè una raccolta di vite di santi destinata alla predicazione, di cui esistono due redazioni datate grosso modo attorno alla metà del XIII secolo. Di sicuro dopo il 1255 non si ha più notizia di Bartolomeo da Trento. Segue un'altra vita che era stata studiata nel 600 da un grande filologo originario di San Candido, quindi Alto Tesino, che si chiamava Matteus Rader, il quale dà alle stampe attorno al 1627 un'opera dal titolo Bavaria Sancta, e aveva fatto molti altri studi sulla letteratura latina, aveva curato un'importante edizione ad esempio degli epigrammi di Marziale, e in cui pubblica questa leggenda, che viene ricordata anche con il nome di Atti Summontoriani, e fatta risalire molto probabilmente al monastero di Hohenwart, monastero di Benedettine della Bassa Baviera. Quindi la geografia delle vite romediane inizia ad allargarsi dal semplice Trentino, coinvolge anche il Tirolo, ma coinvolge anche progressivamente la Bassa Baviera. E una terza vita classificata come BHL 7144, queste sono le sigle con le quali gli studiosi sanno a cosa si riferiscono nel momento in cui citano quel testo, e la più lunga, interessante perché per la prima volta ad esempio si fa menzione del miracolo dell'orso, che tanta fortuna ha avuto nell'iconografia del santo, ma che in origine non esisteva, non se ne faceva menzione, e anche la più lunga dal punto di vista testuale, ed è probabile anche che si riesca a risalire a un'ipotetica data che sembra ruotare attorno al 1303, perché a fare da spartiacque c'è una data precisa che è il 3 luglio 1303, quando Tone di Carinzia, figlio di Mainardo II conte del Tirolo, aveva emanato un atto con la quale Al, che sarebbe la cittadina vicino alla quale sorge il castello di Taur, di cui nobile eremita era feudatario, da Oppidum, che significa paese sostanzialmente, diventa Civitas. Un po' come se avete seguito in tempi recenti la discussione che è stata fatta circa la città di Pergine, che adesso si vanta il titolo di città, ma fino a qualche mese fa non poteva fregiarsi di questo titolo. E segue da ultimo la BHL 7145, che partendo come presupposto dal testo di Tovazzi e è stato l'oggetto del mio studio successivo, e questa si tratta pienamente di una vita medievale, di sicuro posteriore al 1303 per le ragioni suddette, e di sicuro antecedente alla metà del XIV secolo, quindi diciamo composta nell'arco di una cinquantina d'anni, perché al 1355 si fa risalire un altro manoscritto, oggi conservato a Karlsruhe, sempre in Baviera, noto agli studiosi come manoscritto Württemberg. Grazie. E noto come manoscritto K, e che conserva un'altra vita di Romedio, quindi una quinta vita rispetto a queste quattro che sono state già classificate, e la quale fonde tra di loro due vite precedenti, la BHL 7144, la più lunga, quella che introduce tutta la serie di miracoli fino a quel momento inediti, e la BHL 7145, ma li mescola in modo tale che all'inizio del testo chi legge la vita di San Romedio è convinto di avere a che fare con un testo già classificato, perché inizia come iniziava già la BHL 7144. Quindi chi l'aveva studiato molto spesso con disattenzione, per sapochismo, pensava di avere a che fare con un manoscritto contenente una vita già nota. In realtà si tratta di un testo che ha una buona dose di innovazione rispetto a quelle che sono le due fonti. Allora, che cosa sapeva Tovazzi di Romedio? Allora, abbiamo visto che grazie al contributo di Tovazzi si arriva a fissare il corpus di agiografie del santo nel numero di 4, perché a quell'altezza di tempo quelle si conoscevano, K era trascurato, ma era considerata all'interno di queste 4 in qualche modo. In questi anni inizia una prima ricerca anche sulla figura stessa del santo, che come prospettata dalle vite, ad esempio si dice che direttamente San Romedio avrebbe conosciuto San Vigilio, che a un certo punto sarebbe stato chiamato addirittura ad ufficiare l'esequio del santo e avvisato non attraverso una chiamata di telefonino, che all'altezza del tempo, non esisteva, ma dal suono di una campana del Duomo che si sarebbe messa appunto a suonare da sola per avvisare il vescovo del trapasso dell'anacoreta. E già a questa altezza di tempo si inizia a capire che qualcosa non torna, perché il sistema prospettato dalle vite medievali di Romedio sembrano rimandare ad un sistema giuridico certamente posteriore all'epoca di Carlo Magno. Mi spiego perché. Innanzitutto viene chiamato conte, figlio di conti Romedio, e sono dei titoli che rimandano ad un'epoca posteriore a Carlo Magno, ma soprattutto si dice che il santo, volendosi liberare di tutti i suoi beni, che erano cospicui perché rappresentavano il grosso delle saline attorno alla zona di Taur e attorno a Innsbruck, il sistema giuridico per il quale il santo poteva privarsi di questi beni e donarli ad altri oppure cederli all'atto di una successione ereditaria rimanda ad un sistema giuridico verosimilmente posteriore all'epoca di Carlo Magno, quindi diciamo a partire dal IX secolo. E in più aveva già notato Filippo Ferrario, che era uno studioso di origine piemontese, vissuto attorno al 600, che ormai riparte molto giovane, e molto giovane decide di donare i suoi beni alla chiesa di Trento, si ritira in Val di Non, dalla quale parte molto vecchio per andare a salutare il vescovo di Trento che era ancora Vigilio, ritorna nel suo santuario e lì conclude la sua parentesi terrena, solo che Vigilio rimane vescovo per 20 anni. Quindi è verosimile pensare che Romedio partisse giovane e diventasse estremamente vecchio nell'arco di soli 20 anni. Sono state addotte varie ipotesi, ad esempio si è pensato che dietro la parola Vigilio non si nasconda quel santo, ma si nasconda un riferimento generico al vescovo di Trento, ma questa tesi scricchiola un po' perché assieme a Vigilio compaiono anche Sisinio, Martiro e Alessandro, che sono martiri sicuramente vissuti all'epoca di Vigilio. Abbiamo anche delle lettere di Vigilio che parlano proprio di questi tre santi da anni ancora in fase di studio, e non sono disambiguabili in altro modo queste tre figure. Quindi se ammettiamo che Vigilio possa essere un altro santo, come si dice adesso, successore di San Pietro per riferirsi alla figura del Papa, gli altri tre santi non sappiamo come collocarli in altro modo. Già all'epoca di Tovazzi si iniziava a capire che qualcosa non filava in tutto il discorso, ma il peso della tradizione era tale per il quale la lezione era giunta nei secoli sempre uguale a se stessa in quel modo, e quindi metterla in discussione voleva anche dire mettere in discussione in qualche modo la fede e la devozione di un popolo che per secoli si era rivolto a quel santo e conosceva quel santo con quelle fattezze e con quelle caratteristiche. Quindi diciamo che molte cose vengono messe a tacere. Sono anche gli anni in cui iniziano alcune discussioni, ad esempio sulla figura del Simonino da Trento, e sappiamo tutti come è andata a finire la questione negli anni 60 del secolo scorso. Viene fatto lo spoglio di molti archivi, di molte biblioteche, proprio la ricerca di manoscritti, complice anche la richiesta dei bollandisti che appunto stavano allestendo questo catalogo di vite di santi. E inoltre qualcosa non tornava perché Bartolomeo da Trento, che parrebbe essere il primo agiografo del santo, e ad un certo punto in una vita di Vigilio, quindi altro elemento che metterebbe sullo stesso piano Romedio e Vigilio, inserisce un inciso riferito proprio a Romedio. Quindi dice: in Terenne, mentre succedevano queste cose, si compie anche la vicenda di Romedio, aggiungendo un breve inciso che recita: Utineius gestis legitur, ovvero come si legge nelle sue gesta. Ora sembrerebbe dunque che Bartolomeo da Trento avesse sotto mano un altro manoscritto da cui stava traendo le sue informazioni, ma sono stati fatti studi, ricerche, proprio anche a questa distanza di tempo, dallo stesso Tovazzi, che deve aver messo sotto sopra diverse biblioteche, spostato scaffali, spostato armadi, cercando in qualsiasi pertugio qualche manoscritto che magari fosse sfuggito ancora agli studiosi, ma si era pensato anche che potesse essere una semplice formula con la quale un frate domenicano, per le stesse ragioni per cui Tovazzi non ha mai pubblicato nulla, perché non voleva mettersi in luce, allo stesso modo Bartolomeo da Trento poteva molto semplicemente aver messo quella formula come per dire: questo non l'ho scritto io, proviene da una tradizione che mi sta alle spalle e quindi non ho nessun merito, sono quello di far risplendere la vita di un santo che già è stata scritta da qualcun altro. Quindi all'altezza di tempo di Tovazzi erano conosciute 4 vite medievali anonime tranne Bartolomeo da Trento, a cui si aggiunge il breve riferimento di cui vi dicevo nella vita di San Vigilio e Cappa. E a partire da questa altezza di tempo, e è una discussione che si protrae perlomeno fino agli inizi del Novecento, inizia dunque ad inserirsi sempre di più nella mentalità scientifica, nella ricerca storica in Trentino, il dubbio che qualcosa nella vita di Romedio non quadri e che dunque la tradizione, la fabula, dice proprio Rader nella sua edizione del Seicento, in qualche modo abbia scavalcato l'istoria. Vi racconto questa. Padre Antonio Casagrande, che è vissuto nella prima metà del Novecento, morto nel 36, il 30 gennaio del 36, era stato proprio priore del monastero, nel santuario di San Romedio, ed era stato uno dei più accesi sostenitori della leggenda di San Romedio come voleva la tradizione. E a lui si affianca la figura di Rosati, che invece è il primo che inizia a dire che tante cose non filano e che se anche lo storico le mette in luce la fede non ne trae danno. Quando è morto è stato dedicato a lui un articolo adesso non ricordo la rivista, casomai ve la cito dopo, e in cui si diceva che chiunque osasse contraddire con lui la tradizione, lo stesso priore reagiva totalitarmente. Stiamo parlando del 1936, un'epoca in cui ad esempio era salito al potere Mussolini, quindi un uomo estremamente agguerrito nel difendere la tradizione. Allora, il lavoro che a partire da Tovazzi e lo studio della sua geografia ha dato modo di iniziare a risalire a quelle che fosse, potevano essere le fonti, alcune le sappiamo con certezza perché Tovazzi stesso le aveva annunciate ai bollandisti che stavano scrivendo il loro catalogo. A Trento sono conservati dei manoscritti che Tovazzi sicuramente ha consultato, in cui queste quattro vite che citavo prima sono trascritte tutte, quindi sicuramente le aveva sotto mano, e tutte in qualche modo influenzano la sua geografia, la sua vita del santo. E per la prima volta, come diceva il professor Gatti, si vuole fare uno studio scientifico, critico di questi manoscritti per ricostruire con una certa verosimiglianza il testo nella maniera più vicina all'originale. Ma che cosa vuol dire fare un lavoro filologico su un testo tramandato da diversi manoscritti o anche da un manoscritto solo? Serve pazienza. Poi serve tempo, poi di nuovo pazienza, poi di nuovo tempo. Diceva infatti Cesare Segre, che è stato grandissimo filologo, che 12 ore di lavoro per un filologo sono l'equivalente di un marron classe per un elefante, cioè un nulla. Quindi si richiede uno studio, un'attenzione, una pazienza. E tant'è vero che queste vite sono lì, quei manoscritti da diversi secoli, siamo arrivati alla 2010 a iniziare a metterci mano concretamente sui manoscritti per studiarli approfonditamente. Posso dire una cosa? Sì. Deve essere chiaro il concetto di edizione critica. Prima si parlava di, c'era scritto edizione critica. L'edizione critica non consiste nel portare in tipografia e nel pubblicare la vita di un santo o comunque un'opera antica. L'edizione critica è quella che sulla base di tutti i testimoni manoscritti che ci sono pervenuti cerca di ricostruire l'originale come doveva essere uscito dalla mano, dalla mente dell'autore. Voi sapete che prima della stampa, nell'antichità o nel Medioevo, le opere venivano tramandate con copiatura a mano. E quando si copia si fanno sempre degli errori, e quando uno copia degli errori fa anche degli altri errori, eccetera eccetera. Quindi i manoscritti che ci sono pervenuti delle opere antiche, dell'antichità classica, della tarda latinità e di tutto il Medioevo sono pieni di errori. L'edizione critica cerca di togliere, di individuare ed eventualmente correggere questi errori per ridare all'autore l'originalità della sua opera. Pardon. Sì, era sì, per, siccome c'era scritto edizione critica un paio di volte e premeva illustrare queste cose. Comunque poi dopo, alla fine della sua esposizione, mi auguro che ci possa essere un po' di dialogo, un po' di fare delle domande. Certamente. Adesso seguono una serie di riflessioni sui passaggi che compie effettivamente lo studioso nel momento in cui ha davanti questi manoscritti, che deve cercare di, da cui deve cercare di trarre quella che è la lezione, un altro termine tecnico che si usa in questo ambito, la lezione originaria, cioè quella uscita dall'idea originaria che aveva in mente l'autore, che in questo caso non sappiamo chi sia, perché si tratta di un testo. Ho preso a riferimento proprio lo studio che io ho fatto su una di queste vite, una delle due che entrerà in questa pubblicazione, che è la BHL 7145. E vuol dire allora innanzitutto fare una ricognizione di tutti i manoscritti esistenti, contattare le principali biblioteche, magari qualcuno l'ha già fatto per noi, esistono dei cataloghi di manoscritti, di altre biblioteche non esistono cataloghi. Io ad esempio avevo notizia del fatto che qualcuno anche verso Praga si fosse interessato a San Romedio, ho un'amica che ha fatto la bibliotecaria proprio a Praga e quindi ho fatto mandare attraverso lei delle mail per vedere se esisteva o esistesse qualcosa relativo a San Romedio. Non è emerso nulla, nulla escludo che magari possano saltare fuori qualcosa. qualcos'altro. Diciamo che quello che fa il filologo è fotografare la situazione come si presenta adesso, allo stato attuale, questo si conosce e in base a questo riusciamo a ricostruire una determinata cosa. In alto ci sta l'originale, che è ciò a cui dobbiamo aspirare nel momento in cui ricostruiamo il testo. Sotto l'originale si dipanano quelle che sono le varie articolazioni del testo e a seconda della fortuna o meno che esso ha avuto. Ci sono manoscritti che conservano opere in codice unico, pensiamo Tacito ad esempio, se non fosse per un codice unico non conosceremmo ad esempio gli Annales, che sono delle opere capitali per la storia e per la storiografia romana. In questo caso noi possediamo certamente quattro manoscritti e mi devo correggere perché il quarto manoscritto in realtà è un'edizione a stampa che speriamo fedelmente, non ne possiamo avere la certezza, trascrive sicuramente un manoscritto e nel momento in cui lo studioso ha trascritto il manoscritto, dato che ha la presunzione di aver risolto la questione su quel manoscritto, molto spesso lo gettava. Quindi in questo caso forse questa è la vita assieme a Bartolomeo da Trento che ha l'articolazione manoscritta più complessa. Altre vite precedenti, penso la 7143, la 7144, esistono solo le edizioni stampa, no? Posso dire una cosa? Sì. Per convenzione, in questi alberi genealogici che raffigurano la filiazione dei manoscritti, cioè un manoscritto è stato copiato da un altro, quindi l'altro è il padre di questo manoscritto, per convenzione, con lettere maiuscole latine, MBD, si indicano i manoscritti che esistono. Con le lettere greche, sigma, alfa, beta, omega, si indicano manoscritti che sicuramente sono esistiti ma non abbiamo più. Quindi sono ricostruiti da quello che oggi abbiamo. Certamente. E vengono fatte anche delle valutazioni proprio sul testo tradito dai manoscritti per stabilire come siano imparentati tra di loro questi manoscritti. Questo è un lavoro di ricerca che porta a fotografare questa situazione. Non sta scritto da nessuna parte in un albero genealogico di questo tipo, è il confronto tra gli errori presenti in un manoscritto. Poniamo che un errore particolarmente pesante sia presente nel manoscritto N e nell'edizione curata da Rader, non è sicuro ma è verosimile che allora questi due manoscritti in qualche modo fossero imparentati tra loro, che l'uno fosse copia dell'altro, che entrambi derivassero questo errore da un manoscritto precedente. Diciamo che lo studio e l'analisi proprio del testo materiale conservato da questi manoscritti permette di fotografare una situazione di questo tipo. Per dare alcuni dati geografici, B e D sono due manoscritti conservati a Trento, B molto banalmente sta per Castello del Buon Consiglio, uno è conservato a Castello del Buon Consiglio, e l'altro manoscritto D che sta in archivio diocesano a Trento, e è probabile che l'uno sia copia dell'altro. Solo che non riuscendo a stabilire con certezza chi abbia copiato da chi, e visto che il testo di per sé non è molto lungo, si è preferito procedere con prudenza. Quindi anche il lavoro del filologo procede con estrema cautela e senza lanciarsi in supposizioni che non siano provate al millesimo, insomma. Mentre con M si intende un manoscritto conservato a Monaco, molto interessante perché riporta varie cose, è un movimento sostanzialmente triplice, parte dall'est Europa, parte dall'Ungheria, inserisce delle vite di santi appartenenti all'Ungheria, ad esempio Santo Stefano, re d'Ungheria. Poi passa alla zona Trentino-Tirolese, abbiamo San Romedio, abbiamo un carme dedicato al Simonino da Trento, ed è questo interessante perché ci aiuta anche a datare con verosimiglianza il manoscritto, visto che è estremamente unitario al suo interno. Non è somma di fogli sparpagliati e raggruppati in un unico manoscritto, ma è probabile che chi lo abbia allestito l'abbia concepito come un tutto unico, che così si è conservato fino a noi, ci ha permesso di datarlo alla seconda metà del XV secolo in quel caso. Poi si sposta di nuovo verso Oriente raccontando una storia delle crociate e inserendo ad esempio una versione latina del Milione di Marco Polo in questo manoscritto. Poi abbiamo Rader, che è lo studioso Alto Tesino, che nel 600 aveva allestito, sicuramente copiando da delle cartas sumontorianas, come dicevo prima, provenienti dal monastero di Oenbart, da cui l'indicazione della lettera greca sigma S sumontorium. Ricostruire un testo vuol dire anche essere pronti all'imprevisto. Nel momento in cui ci siamo, siamo accordati sul lavoro su questo testo di San Romedio, non avevamo pienamente cognizione di quello che poteva saltare fuori dai manoscritti, perché fino a che effettivamente dai manoscritti non viene estrapolato il testo, tutto può succedere. Può essere che qualcuno a qualche altezza di tempo abbia deciso di cambiare qualcosa, di allungare dei pezzi, di inserire delle interpolazioni. Quindi fino a che non viene trascritto ciò che materialmente sta nei manoscritti, non si può avere, non si può sapere che piega prenderà il lavoro. E anche nel momento in cui il testo è stato estratto ed è stato messo a confronto tra i vari manoscritti, possono succedere dei casi in cui alcuni passi non convincano, perché possono nascondere degli errori che risalgono. Se ricordate, nell'albero genealogico di prima avevamo sotto la O una specie di W, lettera greca che indica omega, vuol dire che il testo già in passato era stato trascritto da qualcuno con degli errori, e tutti i manoscritti derivati giunti fino a noi non derivano più dall'originale, ma da quel manoscritto intermedio che già aveva degli errori. E quindi vuol dire anche fare un ragionamento di questo tipo e controllare se esistono degli errori che si presentano in tutti i manoscritti che danno conto dell'esistenza di questo chiamato archetipo, ma anche ragionare sulla lingua stessa del testo. Ad esempio, abbiamo avuto modo di riflettere in particolare su un aggettivo, vedete, perplexus. A un certo punto il santo compie un esorcismo di una fanciulla posseduta dal demonio e si mette a pregare in ginocchio, la parola è poplite, perplexus. Ora, perplesso vuol dire in modo enigmatico, in modo ambiguo, solo che le parole che seguono sono estremamente cristalline, al punto tale che ricalcano una sintassi di tipo volgare. Pregate con me per questa serva di Dio affinché l'avversario, cioè il demonio, non abbia la meglio su di lei. E allora perché perplexus? Allora si inizia anche una riflessione sulla lingua del testo, e si consultano vari strumenti. Penso al Ducange, che è un importante dizionario di latino medievale, perché molto spesso nel Medioevo anche alcune parole possono assumere significati diversi per tramite anche della cultura cristiana, diverse da quelle conosciute in epoca classica, oppure il Thesaurus in lingue latine, a cui lo stesso professor Gatti ha avuto modo di lavorare per diverse lettere. E proprio risalendo al Thesaurus in lingue latine, una cosa che mi aveva convinto era una definizione de dictis aliquid celantibus, cioè il fatto che una preghiera, essendo pronunciata da un santo, per quanto estremamente comprensibile, è pronunciata da una persona che ha un maggior contatto con la sfera del divino e quindi in qualche modo abbia una profondità, un misticismo, pur nella sua apparente semplicità, che sfugge a chi ascolta questa preghiera, e per questo si è pensato di tradurlo in quel contesto con un tono ieratico, cioè più esaltando la sacralità del santo che combatte il demonio. Quindi nel momento in cui viene estratto da questi manoscritti il testo, possiamo dire che inizia il vero e proprio lavoro di fino, per capire da una parte cosa è vero, cosa non è vero, cosa è stato manipolato, cosa era invece la volontà dell'autore, che lo studioso ha l'ambizione e forse anche l'arroganza di voler ricostruire, e anche quella che dopo effettivamente la resa in traduzione del testo. E vuol dire anche riflettere, una volta che si ha questo testo, sulla paternità, chi l'ha scritto quest'opera. In questo caso non è stato possibile attribuirla ad un autore, e ricostruirne la storia, ricostruirne la geografia, proprio seguendo anche il percorso seguito da questi manoscritti nel corso dei secoli. E da ultimo, una volta che il testo è ricostruito, tradotto e verosimilmente simile all'originale, si può anche pensare di fare una ricerca di quelle che potrebbero potevano essere le fonti. Essendo la vita, la vita di un santo, e molto spesso accade che il testo biblico sia fonte stessa del testo, perlomeno in alcune sue parti. Abbiamo due citazioni testuali, ad esempio, proprio all'interno della vita, una da una lettera di San Paolo e una dai Salmi. E vuol dire anche ricercare affinità tematiche e simboliche con altre figure. Abbiamo notizie, ad esempio, di un altro santo che ad un certo punto, discendendo da Frisinga, parlo di Corvignano di Frisinga, verso Roma, e sarebbe stato assalito da un orso che ha sbranato il cavallo sul quale aveva depositato i suoi bagagli per scendere verso Roma. E questo è un tema estremamente affine alla figura stessa di Romedio, tant'è vero che Corvignano di Frisinga, ad esempio, in un primo momento, è morto attorno alla metà dell'VIII secolo d.C., era stato sepolto a Merano. Quindi sono comunque delle zone che gli scrittori sanromediani che si sono occupati di questa materia in qualche modo conoscevano e avevano frequentato. Poi un'altra suggestione proviene su indicazione di Rader stesso, di cui trovate il frontespizio dell'opera della 1627, e esistono diverse copie anche a Trento, ci sono almeno due o tre diverse biblioteche, il quale accostava l'episodio dell'orso a un epigramma di Marziale, e questo scrittore di epoca imperiale che in un epigramma si interroga proprio sulla facoltà di un uomo che riesce a dominare le forze della natura. Chi riesce a domare un orso? E lo riesce a fare con le sue sole forze oppure bisogna parlare di aiuto divino? E in questo caso allora il contatto con questo riferimento all'epigramma di Marziale non è tanto ad una fonte letteraria del testo quanto già all'inserimento di Rade in quel filone critico che inizia a muovere i primi dubbi circa la verosimiglianza del racconto della vita del santo così come emergeva dalle sue geografie, cioè già veniva notato come venivano notati alcuni elementi che facevano più propendere a un racconto inventato che non a un dettaglio storico reale. Quindi da tutte queste vite di San Romedio emerge la figura di un santo che va via via aumentando la propria santità. E la prima vita, Bartolomeo da Trento, se vogliamo citare quella come prima, raccontò un solo miracolo, ovvero un carpentiere che dopo la morte del santo si sarebbe messo a riparare il tetto del santuario, quindi è anche indicativo di come la figura del santo e il santuario stesso abbia ottenuto fin da subito una certa popolarità e anche fosse stato meta di pellegrinaggi fin dal passato. E sarebbe scivolato dal tetto del santuario cadendo nella vallata sottostante e con la scura in mano i suoi compagni si disperano, pensano di andare a recuperare i brandelli di questo cadavere, invece lo vedono ritornare tranquillamente sulle proprie gambe e mentre è intento a rendere grazie a Dio. Questo è il primo miracolo. Nella seconda vita si inizia a parlare di esorcismi e di poteri taumaturgici del santo che con il tocco delle sue mani riesce a curare dei paralitici, ad esempio, fino alle geografie successive che abbondano di elementi miracolistici e in qualche misura anche favolistici, l'episodio dell'orso, l'episodio degli uccelli che spostano il cantiere allestito dal santo che stava costruendo il suo santuario fino al miracolo della campanella. Quindi emerge una figura di santo stratificata che nel corso degli anni ha accresciuto la propria agiografia e che anche testualmente cresce. Il primo testo è estremamente breve, anche perché è legato a una funzione divulgativa, è un predicatore che deve andare a far conoscere dei gesti di santi predicando alla povera gente per strada, quindi aveva bisogno anche di concisione perché nessuno sta a ascoltare, siete bravi voi che ascoltate per più di un'ora questa riflessione su San Romedio, immagino chi ha l'urgenza di andare a lavorare nei campi se possa stare due ore a sentire il racconto di un santo, serve concisione, pochi dettagli che facciano emergere subito la grandezza del santo. E lo studio attuale smentisce in gran parte quella che è la tradizione così come la si è conosciuta fino adesso. Un'ultimissima riflessione riguarda, legata anche forse agli eventi di cronaca più recenti, la figura dell'orso, e mi piace concludere estrapolando questo pezzetto della vita di San Romedio, in cui secondo me è ben esplicitato quello che dovrebbe essere molto probabilmente il rapporto tra la componente faunistica e la presenza umana sul territorio. Dice San Romedio, leggo soprattutto gli ultimi tre versi: mi suppositus vesceris cibo et potu tuo, a me sottomesso, quindi non è l'uomo che si sottomette all'orso ma viceversa, però hai il diritto di nutrirti del tuo cibo e della tua acqua. E io con questo vi ringrazio e concludo. Avete qualche curiosità? Per quanto i racconti orali vengono percepiti rispetto al mito ormai di San Romedio, perché in fondo la predicazione ti porta a sintetizzare, a modificare, quindi sì, non sì, è assoluto sì. Che ci siano volumetti o parte scritte che giravano nei paesi, insomma, perché mi pare che si chiesero queste cose, insomma, no? Delle trascrizioni, delle modifiche, degli interventi, la comodità di adattarsi a un pubblico particolare, cioè, qui non ce lo vedo, ma mi sembra tutto molto giustamente preciso, dimenticando forse la parte più orale che comunque sicuramente cioè, sì. E forse trascritte qui innanzitutto stiamo parlando di testi latini, perché di sicuro esisteva anche una certa geografia popolare, come dice lei, in volgare o comunque in lingua non latina, perché destinata ad un pubblico che molto spesso il latino non lo capiva più, già stentava a capirlo a questa altezza di tempo e anche nei secoli. Diciamo che forse anche la figura del santo ha avuto proprio più successo attraverso l'iconografia, più che attraverso i testi scritti, tant'è vero che c'è stata proprio una tesi di dottorato che ha studiato la figura di Romedio non tanto nei testi agiografici quanto nell'iconografia, che ad esempio lambisce anche il bresciano, cioè ha avuto una diffusione estremamente maggiore. Poi c'è da dire anche che è Tovazzi stesso ad esempio a farlo, e ci sono anche la volontà di ricercare anche in casi di cronaca e similitudini con la figura del santo, tant'è vero che è Tovazzi stesso che racconta che nel 1785 ad un operaio che stava riparando un tetto di una casa di Coredo sarebbe successa la stessa cosa, e ballata un po' sfortunata forse per chi lavora sui tetti, però di sicuro certe immagini erano ben impresse nella, e secondo me sfuggono rispetto a questi testi, cioè la fortuna del santo rispetto all'iconografia scavalca forse quella rispetto al testo scritto. E oggi cosa significa San Romedio oggi? Se ha una apparenza, insomma, una presenza? Io l'anno scorso sono stato ad esempio proprio il 15 di gennaio, che è la festa secondaria del santo in cui si ricorda la traslazione delle sue ossa nella cappelletta del santuario avvenuta nel 1120, e la chiesa era gremita, nel senso, pur essendo una giornata in cui erano 2 anni fa mi pare, aveva nevicato terribilmente, quindi le strade erano del tutto impraticabili, eppure questa devozione legata forse anche a, non so, il pranzo con le trippe, qualcosa che si aggiungono anche rispetto a questi dettagli, che in qualche modo l'hanno reso un episodio unico nell'arco alpino, la presenza di San Romedio. Dire 2 parole per rifarmi a quello che ha detto lei, parlando del ruolo orale di quello che nel corso dei secoli si viene ad aggiungere alla figura, all'opera di San Romedio. Probabilmente anche togliere qualcuno. Sì, Comunque, questo ha avuto sicuramente un influsso sui vari agiografi che si sono susseguiti, perché se la prima agiografia è quella di Bartolomeo da Trento, che è molto scarna, un unico miracolo, è in una paginetta a stampa, e le altre sono più lunghe, è chiaro che gli agiografi successivi, quando hanno scritto di Romedio, hanno attinto a queste fonti orali, alle storie che sentivano, non credo che le abbiano inventate loro, c'era tutta una tradizione, quindi in questo senso diciamo così, la tradizione orale, che non è latina, difficilmente è latina, magari anche dialetto, è stata poi fissata in alcune di queste geografie, quelle più tarde. Io vorrei... A chi non mi conosce, Celestino Freddi di Trento, faccio un piccolo ponte fra tante varie realtà, specialmente la base, che sta crescendo in un certo punto in un alfabetismo galoppante, e quindi vorrei dire grazie e complimenti ai santi che facilitano questo cammino culturale con chiavi di lettura, con coscienza critica responsabile e sintetizzata nella parola edizione critica. Complimenti però li faccio ai nostri santi che hanno dato la possibilità di aiutare qualche giovane. Oltre il professore, grazie, ma qualche giovane veramente a diventare ricercatore. Se ne è bisogno estremo, proprio disoccupati tanti giovani, se comprendessero, io capisco che è un problema economico a volte, ma se comprendessero l'importanza di questo cammino. Complimenti alla biblioteca, che è la biblioteca che organizza. Sì. Sì, la biblioteca. La biblioteca. Complimenti, buon cammino. Io vorrei concludere così. L'edizione critica, che da errore a errore, però ci porta a... Io non entro in merito a questo, ma entro in merito alla società di oggi. Quanta è veramente la società di oggi ci lascia sbalorditi di fronte a un cammino analfabetico. Tu fai una domanda, io giro per tutta l'Italia, anche nelle università e ovunque. Ti fai una domanda, il 90% risponde con un'altra risposta. Non, proprio non riescono più a parlare. Quindi pensiamo che preziosità che potrebbe essere cogliere veramente dal passato al presente questo filo rosso, nero, grigio, quello che vogliamo. La mia battuta riguarda i santi, crescendo in santità, stratificazione miracolistica e con poi messaggi lunghi eccetera prescritti. Io sento qualche ordine religioso, qualche istituto che continuano a fare veramente logiche stratificazioni miracolistiche, e questi spesse volte questi santi hanno annebbiato, atterrato altri santi che erano prima di loro e forse ancora migliori. Teniamo presente questa coscienza critica che forse ci aiuta un po' a ridare quel giusto spazio anche ai santi di oggi, ai testimoni di oggi. Buon cammino a questa assemblea, non siamo tanti, però basterebbe in pochi per poter diffondere queste cose meravigliose. Buon cammino. Grazie. grazie mille ai nostri ospiti. Grazie.